Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Mia padre e mia madre hanno deciso di separarsi e fra le mani, perché fosse per me il meno traumatico possibile, mi hanno messo un piccolo libro intitolato Non è colpa tua. Non ero traumatizzata. La cosa che più mi faceva stare male era l'idea di non avere fratelli e sorelle da amare. Mi chiamo Matilde Carissimi, ho 13 anni, vengo da Alzano Lombardo in provincia di Bergamo e amo molto lo sport e leggere. Egregio direttore, sono una giovanissima ascoltatrice, mi chiamo Matilde Carissimi, ho 12 anni e vivo ad Alzano Lombardo in provincia di Bergamo. Ascolto la vostra radio da un po' di anni, anche se all'inizio, per la verità, vi ero un po' costretta dai miei genitori, che tenevano e tengono sintonizzata sulla vostra frequenza sia l'apparecchio di casa che quello in auto. Così nel tempo ho imparato ad apprezzare i vostri programmi. Molti oggi interessano me personalmente, mentre altri ancora li subisco. Parto da questi ultimi, ma premetto che il problema non è vostro, semplicemente vengono trattati argomenti che non mi coinvolgono in prima persona e di cui per il momento farei volentieri a meno. Prima di tutto vi è la trasmissione politica La Zanzara, che accompagna tutte le nostre cene. Devo dire che non mi piace tanto lo stile del conduttore Giuseppe Cruciani, che è piuttosto più polemico, soprattutto con chi la pensa diversamente da lui. Devo letteralmente subire anche la trasmissione economica Salvadanaio di Deborah Rosciani, che invece si ascolta all'ora di pranzo, sia a casa nostra che dei nonni. Ma veniamo alla trasmissione che invece amo di più. In prima posizione devo sicuramente mettere la trasmissione Voi siete qui, di Matteo Caccia, in cui vengono lette storie di ascoltatori, vicende umane che sembrano poco importanti ma che in realtà lo sono molto, perché ciascuna vita ha qualcosa di straordinario. Bella la trasmissione Giovani Talenti, che ascoltiamo il sabato pomeriggio. Non posso che ringraziare per la scelta dei programmi e dei conduttori, che mi fanno sognare, perché la radio è capace di questo. Vorrei però dare anche qualche suggerimento, per esempio fare qualche ritocco agli orari. Preferirei cenare non in compagnia della politica, ma con qualche bella storia di sottofondo. Così la sera manderei in onda quelle trasmissioni che definirei più soft, e anche più interessanti e meno polemiche, come Il Gastronauta, che piace tanto a mio padre, Il Riposo del Guerriero, o le altre che ho già citato e che aiuterebbero di più la digestione. Se non chiedo troppo, mi piacerebbe fare visita alla vostra redazione. Io la immagino un po' come una torre di comando e vedere dal vivo come funziona, il volto delle voci. Penso che sarebbe emozionante. Lascio di seguito i miei dati e allego un breve racconto che spero possa essere utile per il mio programma preferito, nonché per il mio conduttore preferito. Voi siete qui. In attesa di un suo cordiale riscontro, le porgo distinti saluti. Matilde Carissimi, 1999. Ecco, adesso voi mettetevi un secondo nei miei panni. Mettetevi nei miei panni quando, tra i racconti che ci arrivano tutti i giorni, che noi ci facciamo stampare da Margherita e che ci mettiamo a leggere nella tranquillità di casa nostra, mi è capitato tra le mani questo racconto. Nemmeno un racconto. Prima del racconto mi è capitata in mano questa lettera di Matilde. Ora, la prima cosa che ho pensato è stata che non fosse una ragazzina di 13 anni, ma una di 28 con un master in sociologia dei media, perché tra l'altro la cosa interessante di Matilde non è tanto che le dice che le piace... un po'... che a una ragazzina di 13 anni ascolti Radio 24 e le piace, è un po' strano, però tant'è, insomma, ognuno ha i suoi gusti. Non è quella che è la cosa che mi ha colpito, è che lei di fatto proponeva un palinsesto, cioè sosteneva che alcuni programmi andavano meglio in un certo orario e altri in un altro ancora. Ecco, quando abbiamo quindi letto questa lettera e poi il racconto bellissimo che ha mandato Matilde, che parla dell'essere fratelli e della sua sorella che è arrivata due anni fa, sia io che Bonini ci siamo detti, vogliamo vedere se questa è veramente a 13 anni. Insomma, l'abbiamo chiamata e visto che, abbiamo chiamato la mamma in realtà, Paola, e visto che Matilde chiedeva di poter venire a fare visita alla radio e al programma, a brevissimo, dopo il suo racconto, in diretta, Matilde Carissimi, come ci tiene lei a dire nome e cognome, Matilde è già di là ovviamente, insieme alla mamma Paola, la sentiremo qui per capire che cosa pensa una bambina di 13. Facciamo un po' un po' edu, info educational, no? Cosa pensa una bambina di 13 anni? Ripeto, una bambina di 13 anni con un master in sociologia dei media, una bambina che probabilmente entro la maggiore età potrebbe essere presidente del consiglio. Potrebbe essere la prima donna al di sotto di 18 anni presidente del consiglio. E non pensate, no, non pensate a quello che state già pensando, che sarà sicuramente un rompicoglioni, perché non è così, non è assolutamente così. Ci abbiamo parlato un'ora prima di entrare in studio. 349-238-6666 come al solito. 80024, no, perché do il numero di telefono, quello no, chi se ne frega, non fate il numero di telefono prima di Matilde. E qui comincio a sudare. Una comunicazione ufficiale, perché mi fanno fare le comunicazioni ufficiali, che non sono capace. Poi abbassare un attimo la base, Paulina. Allora, vediamo se ce la faccio. Radio 24 insieme al piccolo, non proprio senza, un pochettino. Radio 24 insieme al piccolo teatro propone una nuova iniziativa che comincia sabato 26 maggio, cioè domani, alle 17 al chiostro. Aspetta, stai lì. Non andate via, che ve la dico bene. È una nuova iniziativa, sono 11 incontri che si tengono al chiostro di Via Rovello, a Milano, al piccolo teatro, e che riguardano i grandi classici della letteratura. Quali sono i grandi classici che avete letto, che hanno lasciato un segno e che vi hanno insegnato qualcosa? Se volete partecipare a questi incontri potete scrivere a questa mail comunicazione@piccoloteatromilano.it. Ripeto, sono 11 incontri in cui grandi personaggi dell'economia, della finanza e di altro racconteranno alcuni classici che li hanno segnati, li leggeranno dei pezzi e lo faranno insieme a dei giornalisti della D24. Il primo, domani, vede Giulio Anselmi, direttore dell'ANSA, parlare di Aivano, addirittura insieme a Fabio Tamburini, che è il direttore della radio. E a seguire ci saranno Ivan Lobello, che non è l'arbitro, si chiama Mario Lobello, così si chiamasse, Ivan Lobello, vicepresidente Confindustria, Raffaele Bonanni, segretario della CISL, Tronchetti Provera, presidente Pirelli. Ripeto, tutti i sabati alle ore 17 nel chiostro di Via Rovello del Piccolo Teatro di Milano. Per partecipare, comunicazione@piccoloteatromilano.it. Ce l'ho fatta! E senza nemmeno sudare troppo. 349-238-6666. Torniamo a parlare dell'argomento di oggi. È il racconto che ci ha mandato Matilde, che parla dell'essere fratelli. Se volete dire due parole su che cosa significa per voi avere un fratello o avere una sorella, 349-238-6666 o il profilo Twitter del programma, che è VSQR24, o Facebook, che è Matteo Caccia. Io sono qui. Adesso sentiamo che cosa dice nel suo racconto Matilde e poi lo sentiamo dalla sua viva voce. Ho sempre pensato di rimanere figlia unica. Per 11 lunghissimi anni mi sono goduta le attenzioni dei miei genitori e il silenzio della casa. Naturalmente avevo la certezza che fratelli e sorelle non avrei avute quando mio padre e mia madre hanno deciso di separarsi. E fra le mani, perché fosse per me il meno traumatico possibile, mi hanno messo un piccolo libro intitolato Non è colpa tua. Un libro che qualche giorno fa ho ritrovato fra i nostri libri di casa, in alto, fuori dai nostri occhi. Non ero traumatizzata, ma la cosa che più mi faceva stare male era l'idea di non avere fratelli e sorelle da amare. Poi le cose in famiglia, per motivi che non voglio raccontare, si sono riaggiustate. Faccio la seconda media, appunto, nelle scuole medie di Alzano Lombardo. Amo leggere soprattutto i romanzi. Non amo molto i libri fantastici e l'horror, ma più cose romantiche della mia età. Pratico sport praticamente da sempre. Mia mamma mi ha insegnato a nuotare, mio papà invece ad andare in bicicletta. Mamma e papà, che secondo me si amano anche se non se lo dicono a parole, hanno incominciato a sentire il bisogno di allargare la famiglia. E dopo aver chiesto il mio parere, hanno iniziato i colloqui per avere un bambino in affidamento. Quando andavano ad incontrare le psicologhe, volevo sapere tutto. Mi elettrizzava l'idea di condividere la cameretta, i giochi, i libri e anche la mamma. Mi immaginavo il volto o la storia di chi avremmo accolto nella nostra famiglia. Era l'estate del 2009 e tornammo tutti prima dalla vacanza in Dolomiti perché i miei genitori avevano un colloquio programmato al consultorio. E poi la mamma non era molto in forma. Lei è insegnante e voleva riposarsi un po' prima di riprendere la scuola. Io ancora oggi non so il perché, però facevo già strane battute, alludendo ad una possibile gravidanza. Dentro di me già sognavo un esserino in casa nostra. E così fu. La mattina del colloquio la mamma fece il classico test e scoprì che dentro di lei c'era un nuovo bimbo. Una bimba, per la verità. Dalla psicologa ci andarono comunque decisi a continuare il percorso, ma capirono che non era il momento adatto. Oggi mamma e papà sono intenzionati a riprendere quel progetto lasciato a metà. E intanto una piccola bestiola trotterella rumorosamente per casa. È mia sorella, Caterina. Quello che non scorderò mai è l'istante in cui l'ho stretta per la prima volta fra le braccia. Era venerdì sera, venerdì 16 aprile, con il clima tipico di quel periodo. Mattinata di sole, pomeriggio di pioggia e serata nuvolosa. Io ero stata sistemata dai nonni, me ne stavo sul divano, alla TV c'era Sister Act. La mamma era andata in ospedale con le sue gambe per un controllo durante il pomeriggio, ma l'avevano trattenuta. Io pensavo che le cose sarebbero andate per le lunghe, nei film vanno sempre per le lunghe. Succede sempre così. E invece così non fu. Poco dopo le 9 il telefono squillò. Il papà chiese al nonno di accompagnarmi in ospedale perché secondo lui non mancava molto all'arrivo di Caterina in questo mondo. Mi ricordo quando è squillato il telefono dei miei nonni e dall'altra parte della cornetta c'era mio papà e era appena nata Caterina e ho sentito il suo primo pianto. La cosa più impressionante, insomma, che mi è piaciuta di quel giorno è stata quando sono arrivata in ospedale e mi sono sdraiata fra le braccia di mia mamma con davanti la faccia di Caterina e ho sentito il suo respiro, il suo odore caratteristico comunque dei neonati. Mi vestì rapidamente, per la verità un po' delusa per non poter vedere la fine del film. Salimmo in auto. Pochi minuti ed eravamo nella sala d'aspetto. Mi diedero un buffo paio di soprascarpe, come quelle che danno anche in piscina, ed entrai in sala parto. La mamma era sdraiata sul lettino con la sua maglietta Mamma Fit. Non sembrava sofferente. Per me era bellissima. Non si sentiva nulla, nessun rumore. Poi mi accorsi che sul suo petto, avvolta in un lenzuolo, ci stava lei, Caterina. Piccolissima ma già grintosa. Mi sono avvicinata piano e mi sono messa dall'altra parte del petto della mamma. I nostri occhi, i miei e quelli di Caterina, si sono incrociati. Il suo profumo, profumo di buono e di latte, mi ha inondato. In quel momento preciso, ho capito di amarla. Io ho una sorella. Si chiama Tiziana, è più grande di 2 anni. E secondo me un po' le ho dato fastidio quando sono nato. Perché lei aveva mamma e papà tutti per lei. E poi dopo quando sono arrivato io, non più. Ma era piccola, quindi è probabile che non si sia accorta di tutto sto cambiamento. Forse poi sono diventato solo un nuovo giocattolo, un nuovo bambolotto parlante di cui prendersi cura. E piano piano siamo cresciuti così, volendoci bene come nessun altro potrebbe. Di quell'amore che nemmeno la mamma, perché è un amore tra pari. Lei si è presa cura di me e io a modo mio di lei. Siamo diventati sempre più simili perché le distanze si sono ridotte e crescendo ci siamo accorti che eravamo noi i complici e che i nostri genitori erano un'altra cosa. Per me è stato strano accorgermi che potrei vivere senza di loro, ma non senza di lei. Forse perché noi ci dicevamo tutto, anche quello che alla mamma non si può dire. O perché nessuno di noi due sgridava mai quell'altro o lo obbligava ad andare a letto presto, ad esempio. Siamo diventati una squadra e sapevamo che un favore fatto sarebbe stato ricambiato sempre. Potevamo contare l'uno sull'altra. Perché i fratelli si amano comunque di un amore misterioso, una sorta di amicizia di natura, una condivisione di obiettivi e di nemici anche. Ci passavamo i libri, i giochi, a volte persino i vestiti. E il nostro azzuffarci era solo passione. Picchiarci da bambini era il nostro modo per dirci non ti lascerò mai. Da un fratello non puoi divorziare. Puoi non frequentarlo, puoi litigare, puoi sentirlo distante, ma saprai sempre che esiste solo lui con il tuo stesso cocktail di sangue e di DNA. Lui e nessun altro al mondo. Nemmeno tuo padre e tua madre sono vicini a te come tuo fratello. E poi c'è un'altra questione che mi lega a mia sorella. È una cosa che c'entra col periodo di quando andava alle medie e io ancora alle elementari. E che ha continuato per un sacco di tempo, qualcosa di cui la ringrazierò per sempre. Il fatto è che lei portava le sue amiche a casa. E io, in casa, ovviamente, ci rimanevo apposta. Ha cominciato circa 11 anni. Io ne avevo 9. Con la scusa di fare i compiti e anche per giocare insieme alle bambole, col dolce forno, insomma, arrivavano in casa nostra. o anche solo per guardare la TV, chiacchierare. A volte veniva una sua amica, quella più cara, quella speciale. Altre volte invece, quando litigavano, veniva l'altra, quella un po' meno speciale. Altre volte venivano in quattro o cinque. E ogni volta per me era un'emozione, perché potevo stare lì a guardarmele. Qualche volta si chiudevano in stanza, ma di solito stavano in soggiorno. E io mi mettevo sul tavolo a far finta di leggere. Crescendo le cose non sono cambiate, e le amiche di mia sorella sono cresciute in fretta. E quando eravamo adolescenti è stato il massimo. Loro erano ormai donne e io ero un pascià, abbastanza piccolo da non rappresentare una minaccia, ma simpatico e chiacchierone quanto basta per essere coccolato. Ero il bimbo più fortunato della terra, e le feste, e poi sono cresciuto ancora, e forse è meglio che mi fermi qui, perché poi alla fine sono cresciuto anch'io. And I don't know if I'm ever coming home. Quando hai compiuto 3 anni, tuo papà, dall'alto della sua autorità, ha detto: allora adesso a settembre il Matteo va anche lui a scuola, all'asilo. Allora ti hanno mandato a scuola, anche te, a 3 anni. Allora, aspetta che riprendo il filo del discorso. Tu eri sopra perché eri uno dei piccoli e la titi era di sotto. Lei, quando veniva a casa, sembrava una mammina. Oh, mamma, con questo bambino, su e giù per le scale. Perché le suore sono furbe. Perché quando fanno che c'è qualcuno, fratello e sorella, cercano sempre la sorellina o il fratellino di metterli vicino, così stanno bravi. Allora lei, la suora, gli ha detto: tu oggi, quando Matteo dorme, vieni su a tenergli la mano. E lei veniva su a tenergli la mano. Allora, arrivano messaggi per Matilde. Matilde, te li leggo. Matilde è in studio, ciao Matilde. Ciao. Allora, è partita subito fortissimo Matilde, come se fosse sempre stata davanti a un microfono. Ragazzi, preparatevi, ricordatevi questo nome, tutti voi all'ascolto. Matilde, carissimi, o ministro dell'interno o presidenza del consiglio. Cosa vuoi studiare da grande, Matilde? No, mi piacerebbe diventare una dottoressa, niente politica. Niente politica, no. Vabbè, la politica non ci piace. È arrivato anche Alessandro Marco Tulli, regia. Ma vedi, quel ragazzo lì viene solo quando ci sono puntate importanti. Quindi questo non per responsabilizzarti. Matilde scrivono: Matilde è già la numero uno, idola indiscussa, senza che tu abbia fatto nulla. Quindi tu figurati. Che delizia, questa bambina è un buon seme per un ottimo futuro raccolto, scrive Tina. E poi ancora mi scrivono, scusatemi, che l'arbitro non si chiamava Mario Lobello ma si chiamava Concetto Lobello, e chiedo scusa a tutti. Credo che dobbiamo già lanciare la borsa, giusto? Siamo già un po' in ritardo. Abbiamo un minuto. Paolino dice che abbiamo un minuto. Matilde, dimmi una cosa, che cos'è la maglietta Mamma Fit? È una maglietta che mia mamma aveva preso quando era incinta, e c'era scritto Mamma Fit col tutto colorato. Ma nel senso che è fatta apposta per le donne incinta? Sì. Ok, quindi quando tu l'hai vista con la sua maglietta Mamma Fit hai capito che era tutto bene. Certo. E Caterina dov'è adesso? Caterina dei nonni, tranquilla. Ma sta ascoltando? Penso di sì, spero di Salutiamo sì. Salutiamo Caterina? Ciao! Voi siete qui. 349-238-6666, è sempre venerdì 25 di maggio del 2012, sono le 16.34 e tutti gli sms che arrivano sono ovviamente per Matilde. Ciao Matilde, a te da un commerciante artigiano di Albino, vicino al tuo paese. Qui basta che uno dica che è di un paese e tutti gli altri. Un saluto a tutti gli ascoltatori della Val Seriana, io sono di Albino. Dov'è? Albino è vicino a casa tua, Albino? Sì, vicino, sì. Dopo Quanto dista più o meno? Due chilometri. Sa tutto Matteo, qualsiasi domanda risponde. E niente, la mamma suggerisce 5, ma chi se ne frega. Che piacere sentire il racconto di Matilde, auguri di cuore a Matilde. E poi speriamo che Matilde venga al live del 19 giugno. Ci sarai, perfetto. Ricordiamolo, martedì 19 giugno, live di Voi Siete Qui, in diretta alle 21. C'è gente che addirittura l'ultima volta che è uscita era il 21 giugno scorso per il live di Io Sono Qui, e già si è prenotata per il live del 19. C'è da compilare una pagina, tu lo sai come si fa? Dopo te lo faccio vedere. Okay, sulla pagina di Radio 24, vai in fondo, ci clicchi sopra sulla mia, c'è la mia foto col faccione largo, con la Polaro, una foto inguardabile, e lì ti registri per prenotarti. Matilde, Vorrei tanto entrare nella testa di un bambino di 13 anni, ma Matilde ne ha 48, quindi di fatto non serve. Però mi dici qual è una tua giornata tipo? Cioè, tu a che ora ti alzi? Fai colazione? Non fai colazione? Fai colazione perché... Sì, faccio colazione. Perché la colazione è il pasto più... importante. Vabbè, dai, io vado. Fai tu. Dimmi, ci alziamo alle... Alle 7 c'è la sveglia di famiglia. Poi la sveglia di famiglia già mi fa paura, nel senso che tipo tutti insieme alle 7. Certo, tranne mia sorella che... È già sveglia alle 5. No. No, dorme anche se ha 2 anni. Sì. Ok, quindi colazione e poi a scuola. Colazione e poi a scuola, 5 ore di scuola. 5 ore di scuola? Sì. Secche? Sì, poi cioè, abbiamo lo so, solo... anch'io ho fatto 5 ore di scuola, però speravo fosse cambiata, ragazzi, era una tortura. No, sempre 5 ore. Sì, solo 10 minuti di intervallo. E poi si ritorna. Ci tiene a dire solo 10 minuti di intervallo. Stamattina verifica di grammatica. Sì. Che mi dicevi era una simulazione? Una simulazione in Valsi di comprensione di un testo. Ma una simulazione in Valsi sembra una lingua, sembra ladino tipo, no? Sembra una lingua, Marco Tulli la conosce perché sappiamo cosa simulazione in Valsi. E poi educazione fisica, mi hai detto? Educazione fisica, un'ora di geografia. E poi abbiamo avuto la verità. E una di religione. Ok, a questo punto vai a casa. Mangi, sì. Ci sono i tuoi a casa, no? Sì, mio papà esce subito perché poi deve tornare al lavoro e rimane lì mia mamma con mia sorella. E come passiamo il pomeriggio, Matilde? Il pomeriggio inizia, 10 minuti sicuramente di televisione ci sono per rilassarsi un attimo. Poi... Cosa guardi in televisione? Delle trasmissioni mediche di... No, aspetta, scusa. In che senso delle trasmissioni mediche? Sì. No, la mamma dice di no, di là dal vetro, c'è un attimo di panico. Io vorrei andare avanti fino alle 18 con questo programma. Delle trasmissioni mediche, nel senso che... No, sì. Ma tipo Medicina 33 con quel tizio che sembra imbalsamato dal 1965. No. Come per esempio IAR. Ah, ok. Sì. Cioè delle fiction, fiction. Di medicina. Benissimo, ok. Poi studi. Poi studio. Ok. E poi di pomeriggio, cioè, dalle 6 in poi vado a fare sport... Vado a correre con le amiche e poi basta. Vai a correre con le amiche? Sì. Cioè, ma una cosa da 13 anni non la fate? Cioè, tipo a 13 anni si va a correre? Eh sì, perché faccio atletica e quindi ci troviamo a correre però anche. Cioè, quindi fai quante? 100 metri, 400, 800? No, domenica è una gara di 1000 metri. È una gara di 1000 metri, benissimo. Ma ha del tempo libero questa bambina? Lo chiedo alla madre. Sì. Cioè, tipo leggi tu mi sì, dicevi? Sì, leggo, però più alla sera, a letto. A letto, e che libri leggi? Romanzi, storie d'amore tra ragazzi o... Ma quindi parliamo di Twilight, quella roba lì? No, vampiri. Mi è capitato solo raramente di vedere dei Twilight, film. Sì. Ma non hai letto i libri, quindi... No, di Twilight no. Ma perché Twilight è una roba per 13 anni o per un'età più alta? Non no, lo vedono anche le mie compagne. Lo vedono le tue compagne? Sì, gente sì. Che allarga le mani di là. Ma invece programmi televisivi proprio espressamente per, per ragazzi della tua età? No, preferisco rilassarmi alla sera con dei film, commedie con mia mamma. Va bene, senti, cosa ne pensi di questa crisi economica? Cioè, come pensi che ne possiamo uscire da questa crisi, Matilde? Non ne hai idea. No. Però vogliamo studiare medicina, hai detto. Sì. Perché? Perché mi sono... Cioè, il momento particolare in cui mi sono avvicinata alla medicina è quando mio nonno è stato all'ospedale per un lungo periodo e ho scoperto così che mi piace. E cioè, per... aspetta, ti piace l'ospedale? No, non l'ospedale. No, non ti piace l'ospedale. Anche con IAR quando vedo le... Beh, certo, IAR è il riferimento assoluto, direi. Sì. Mamma disperata diceva, avevo una figlia intelligente, sta facendo una figura orribile. Non è così invece, perché anzi, quante amiche della tua età sanno già che cosa fare da grandi? Poche? Poche, sì. O tutte hanno le idee chiare come te? No. Cioè... Ma no, non è un'idea chiara, mi piacerebbe, ma non sono sicura. Ok, facciamo allora... Tu adesso hai 13 anni, quando hai 30 anni no, perché in Italia 30 anni è come se ne avessi 15, quando avrai 40 anni, tu ti immagini dottoressa, giusto? Mi piacerebbe, ok, sì. Ma di che cosa? C'è una specializzazione? No, ostetrica o chirurgo. Ammazza, cioè o far nascere i bambini o operare, sì. In sostanza. Torniamo invece a... Intanto continuano ad arrivare i messaggi per te, Matilde, te li farei leggere. C'è la sua scheda d'atletica completa su internet, mi scrivono. Davvero? Cioè, se tu cerchi Matilde Carissimi, sì. c'è un riferimento. Aspetta, stai qua. Faccio in tempo a cercarla. Sto computer della... No, Paolino mi dice di no. Allora, voglio vedere cosa... Allora, ma tu ti cerchi... Ti googoli? No. Davvero? Sì, no, mi sembra di sì invece. Matilde Carissimi. Carissimi è un cognome bellissimo, tra l'altro. Sì. Matilde Carissimo. S Club Alzano. Fidal. Giusto? Sì. Sì. Felicissima. Quanto abbiamo? Abbiamo 30 secondi? No, come 30 secondi? È che qua ci mette 30 secondi solo aprire la pagina. Cosa facciamo? Questo è perché devo chiudere. Cosa facciamo quest'estate, Matilde? Cioè, no, non io e te, cosa fai? Sì, al mare con la famiglia e gli amici e basta. Benissimo. Dimmi chi è la tua amica più del cuore del cuore? Che domande meravigliose! Del cuore del cuore! No, sono tutte amiche, non ce n'è una. Eccola qua, abbiamo tutte, 60 piani, 150 piani, 600 metri piani. Dov'è la gara di domenica? Ad Alzano. Benissimo, allora la gara ad Alzano e poi il 19 giugno qui per i live di Voi Siete Qui. Sicuro. Ok. Grazie a Paolino Corleoni, Margherita Ina, alla mamma Paola e soprattutto a Matilde. Matilde, ciao. Fa un saluto. Noi ci sentiamo lunedì, la sera di oggi era la sua, era di Matilde, quella di lunedì è la sera di Christian e parla di basket. A Marghera però ne avevamo presi 30, troppo scarto, non ci aveva fatto piacere. Ci aveva massacrati Bordignon, uno fortissimo, che aveva il record dei punti segnati in C per tutta la nostra regione. È anche per quello che ci teniamo alla partita di ritorno. Magari si perderà, ma non faremo brutte figure, o almeno ci proveremo.